YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, buonasera. Ciao, ci Marta. Siamo per la terza ora del Sabato del Villaggio, la mia ora preferita della settimana, perché la mia solitudine qui nello studio tua, finisce. Vola via. Finisce vola perché via. Finalmente arriva Daniele Bellasio. Ma non è Bellasio. Vero, c'è un sacco di gente anche prima. Beh, sì, c'è un po' hai notato via, che non ci salutiamo mai tra di noi? Sì, ciao, ma perché ci salutiamo durante il GR? Ah, giusto, durante prima. Dovremmo far finta, ma dai. Qua. Ah, ciao Marta, ciao. Sei qui. Potremmo fare, sei qui, come per il Salone del Mobile, ti incontri per strada, ciao. Oh, il Salone del Mobile, sai che ne parliamo dopo, perché io non te l'ho ancora perché svelato. Del mobile ho trovato parliamo? Delle cose bellissime. Dei video? Ho trovato dei ma non video. C'è nella scaletta, peraltro. No, è tutta una roba a sorpresa, non qua a Milano un delirio, detto. Ma un delirio. Ma una cosa, sei mai vista una roba del genere? Però, un paio di sere. Sei andata in giro? Sì, un paio di sere. Che fatica. Che hai visto? Fisico. Gente. Quindi non ho fatto si vede cose, ho visto fuori gente. No, poco. C'è più gente che cammina, che... Ma vado, ne parliamo dopo. Gente. Sai sì. Che ne parliamo dopo? Perché esattamente con questo spirito. Con questo spirito noi vi mostriamo alla radio l'imperdibile, l'imperdibilissimo di tutto ciò che in video è andato in rete e adesso torna alla radio. Ma mi piace quando, sì, quando mi piace spiego, quando motivi così. Sì, no, no, spiego che tipo di trasmissione è, siccome mi è, piace appunto è ti impegni, sì, perché alla radio non si vede. Alla radio non si vede. Perché mi abbiamo abbandonato l'impegno. Un po' Periscope. Abbiamo sì, un po' abbandonato, ma presto sorprese. Invece, dunque gli hashtag sono l'hashtag RadioTube per quest'ora, per l'altra perfetto. Ora i SDV, bravissimo. Et Marta Cagnola, et Di Bellasio. Il personaggio video della settimana non è Crozza, non è Renzi. No, guarda, questa volta no, questa non volta è niente. Pantellas, no, non è Frank niente. Underwood. Beh, Frank però Underwood, ci stiamo avvicinando. Frank Underwood ci stiamo no, poverino, avvicinando. No, non si può no, dire. No. Allora, non so se dirti se il personaggio è lui è o lei. Mario Draghi o la signorina che... Ma no, Mario Draghi, scusa. Allora, raccontiamo un po' cosa è successo. Allora, conferenza stampa, BCE... Presidente Mario Draghi che sta in un parlando. English tutt'altro che renziano. No, infatti lui è, ma c'ha questo inglese proprio poi anche molto bello, proprio sì, così, no? È lì serio, che parla molto serissimo, serio sempre con questa riga. Ah, preciso, mi piace. Anche Mario se Draghi. Un po' di tempo fa era uscita la foto del bacio. Quindi un po' di umanizzazione di Draghi, capisci, già era arrivata. Capisci perché mi piace Mario Draghi? Perché secondo ma non perché addentriamoci, sì, ma non addentriamoci. Questo bell'uomo sì, che parla col suo aplomb. E arriva una signorina. Sì. Che niente, che cosa fa? Niente, si getta. Sì. Come nelle braccia, però non si capisce cosa fa mentre si getta. Si spaventano tutti tantissimo perché lei semplicemente getta una manciata di coriandoli. Sì, saltando in piedi sul tavolo dove stava parlando il presidente. Con uno scatto felino. E dicendo? E dicendo, vabbè, dai, però mostriamola alla radio. Mostriamo. Questo video. Purtroppo non si può vedere la schiena della... No, e neanche il lancio di coriandoli. E sì, vabbè, lo commentiamo dopo. Dopo. Vediamo il lancio di coriandoli. Sì, vediamo. Together, such developments will lead to a sustained return of inflation towards a level below, but close to 2% over the medium term, and will underpin the firm... Ladies and gentlemen, we will shortly adjourn the conference and start in a few minutes again. Thank you for your understanding. Io sono pazza della thank signora you. Che dice ladies and gentlemen. Thank you. Con lo stesso aplomb di Dream. Sì. Oh, bravissimo però anche Draghi. Ah, Draghi, la cosa incredibile è vedere il fermo immagine con lui che si spaventa, perché no, poverino si spaventa. Si spaventa ma anche sorride, cioè è una strana reazione. Sì, diciamo che è un riso. È quel passaggio in cui si rende conto, prima non capisce e poi si rende conto. Tu ti riferivi al fatto ovunque. Che la signorina aveva la vita un po' bassa e si è un po' scoperta, ma poco perché pare che fosse la stessa signorina che in realtà si era messa in topless a seno nudo nel Duomo di Colonia durante la messa di Natale un anno e mezzo fa. Ma la cosa femen, che lei dice and ECB dictatorship, cioè dictatorship, sì. Fermiamo la dittatura della BCE, dei banchieri. Dictatorship, yeah. Era scritto col CK, dick. Dick in inglese. Ma noti sempre certe cose tu, Com'è Dick che questa è cosa? L'attributo maschile, chissà. Quindi lei, ecco, ha giocato su questa cosa. C'era il doppio. Voleva una donna presidente, forse. Esatto, probabilmente. E io mi sono subito arrabbiata. Perché? Io ho fatto una delle mie scenate colorite. Ma perché non si può tradurre confetti con confetti in inglese, confetti in italiano coriandoli, cioè leggevo, ha lanciato i confetti, ma una gragnuola di confetti che faceva lì, male, c'era lì le agenzie veloci a scrivere, no? Faceva malissimo, perché doveva lanciare i confetti, tra l'altro quando torna Draghi passa tipo una mezz'ora a togliere i coriandoli uno a uno. Capisci? Con una precisione, che uomo, io guardo, cioè lui, veramente mentre faceva ma forse lo vediamo, lo mostriamo alla radio? Mostriamo, perché mentre tentava di ripartire col ditino a uno toglieva i coriandoli. Uomo, guarda, dai, mostriamola alla Secondo radio. Me a casa lava pure i piatti. Andrea, mostraci alla radio, Draghi. Ladies and gentlemen, as we have announced, we're going to continue the press conference now. Thank you. Thank you. Well, it would be good for continuing this press conference that I have my introductory statement with me. Otherwise, I will have to improvise. And let's continue where I stopped. Let me start. Well, the implementation. Let me start with a positive tone. Le pause che si sono sentite non erano pause perché non trovava la parola in inglese, tutt'altro, era perché toglieva il coriandolo mentale. Bellissimo. Mi piace ha fatto tanto anche questo. Beh, però comunque ha contribuito a umanizzare un po', no? Ulteriormente. C'è sì, chi devo l'ha dire detto, che poi c'è chi ha ancora scritto una volta parliamo delle misure di sicurezza, perché la signorina doveva lanciare solo sì, i coriandoli. Questa però, volta è andata ragazzi, solo così, in altre però, circostanze, come sappiamo, ecco, molto peggio. Non ci si può anche un po' preoccupare. Lo so. Poi sai che tra poco voglio parlare di un'altra donna che ha fatto molto clamore, non ha lanciato niente a lei, anzi ha lanciato la sua candidatura. La sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Voli, ma tu sei contenta? A me lei piace molto. Io a non me tanto. Lei piace, non ti piace? Ma no, dopo vent'anni un Clinton contro un Bush. Vabbè, parliamone tra poco, dai, sì. Lasciamo va bene. Sospeso questo tema che gli ascoltatori avranno già capito, perché ci sono tutte le indicazioni per chi sta viaggiando e tra pochissimo ancora coriandoli, quel lanciamo coriandoli a tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Radio Tube. Beh, Daniele, l'abbiamo anticipato, Hilary si è candidata, cioè, non è proprio una grandissima, grandissima sorpresa. Mica tanto. No, la Clinton machine era in moto da tempo. No, io sono un po' deluso, sono deluso che per il fatto che se persino l'America dopo vent'anni riproduce un Clinton contro un Bush, vuol dire che qualche problema di ricambio di classe politica c'è. Però c'è Rubio, però ci sono altre cose, ma Ted Cruz, vediamo. Mi accontento di un presidente donna. Bisogna vedere. Certo è che sarà difficile per i democratici trovare qualcuno che ha il coraggio di sfidare appunto la Clinton machine, perché Obama era Obama, cioè è voluto un gran figaccione come Obama per tentare di farcela contro lei i Clinton. Lei cosa ha fatto? Lei ha intanto si è inventata questo simbolo che in rete è stato molto discusso, questa H con la freccia, che in tanti hanno accostato a qualsiasi tipo di simbolo. Addirittura poi è nato il carattere per scrivere proprio Hilary Bold. Lillarese. E poi ha fatto questo video. Sì. Bellissimo, no? Ci sono tutte le persone comuni che dicono: ah, io ho un grosso progetto, adesso vorrei fare questa cosa. E c'è quello che pianta delle piante, quella che è incinta dice: ah, il nostro progetto è quello di avere un bel maschietto. E anche Hilary ha un grosso progetto. Vuoi sentire? Grossissimo, certo. Sentilo qua. Eccola, Hillary Clinton. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get I want to be the champion. Voglio essere il campione. Sì, mi sto preparando Stefano per fare qualcosa. Mamma mia, no, scherzo, sempre con questo 1992. È la cosa più originale della serie. Mi piace questo 1992. Sì, perché ci ha dato la possibilità di dell'hashtag da un'idea di Stefano Accorsi. No, no, lo spot è carino. Come diceva mia nonna, poi, chi disprezza compra. Continui a parlare di 1992. Sono così ossessionato. Però dicevo, no, tra l'altro c'erano i Clint, stavano per. Ma comunque, quello che volevo dire, me lo sono perso. Ah no, che è tornata anche Chelsea, pare, no? Che non è più Cessa, che sai dire? Beh, si è anche sposata, no? Sì, bella no, donna. Ma poi non è mai stata... Cioè... E non era bellissima, però adesso no. Anche Chelsea, Hillary, insomma, Chelsea, diciamo. Piace, Chelsea, però anche Clee, anche Bill. Ma Bill cosa farà poi? Cioè, questa è la grande domanda. Se, no, ma se anche lei... perché c'è POTUS, President of the United States. FOTUS, First Lady. E come sarà? Former. No, ma poi lui è anche former. Però lui è insomma c'ha i numeri, no? Sai, sì, presidente, adesso poi controlliamo che numero. Ma Io lo voglio first chissà husband. Che farà. Sai chi si è lanciata anche questa settimana? Questa volta non fisicamente. Non è caduto palco, stavolta, no. Questo che volevi dire. Madonna. Vabbè, però si è lanciata anche qui con una cosa che aveva già fatto, mi pare. E beh, però lei, la reazione quando non incontra era proprio... qualcuno gli fica lì un mo, non lo so, guarda, e soprattutto sei lì se che donna, non sai cosa peraltro. Fare. Sì, non è so una come cosa dire. Incredibile. Sei lì che vabbè, è sul non palco che non sai bene che guardi, va bene che sennò qua in radio ma io passerei, se Madonna mi avvisa, io passo lì. E tu fai Provo. Alla fine dei miei giorni dirò però ho baciato Madonna sappi che se vieni qua se passi da Lotto qua, magari per il salone del mobile da queste parti guardiamo cosa ha combinato la Madonna. Reazione cosa ha combinato cosa Madonna combinato? Eccola qua. Kiss. Coachella Festival di Indio, California. Perché stanno urlando? Non si è capito tutti? Niente. Perché lei ha finito di cantare e lei cantava praticamente dietro a Drake, rapper canadese, lui era seduto e lei gli ha preso la testa da dietro e se l'è limonato, quindi lui era seduto così che non sapeva cosa fare. Ma lo sa, era preparato, non si no. Non credo, perché lui quando lei ha finito di limonarselo si è pulito la bocca. No, ma sì. Per il rossetto? Forse per il rossetto. Cioè, non è un gesto carinissimo. No, anche diciamo, lei ha preso un'iniziativa, ma è un po' un periodo che Madonna è frizzante. Io guarda, credo che non potrei uscire viva da una roba del genere. Cioè, se fossi da baciato, uno che si pulisce la bocca, ma ti prego, ma no. Però potresti baciare così all'improvviso, oltre a cantare. Non sono dopo, Madonna, hashtag, non sono Madonna. Dopo Marta canta, hashtag Marta bacia. Va bene. Perfetto, cambiamo avanti. Argomento, perché qua si è fatto troppo scottante. Però visto che si è fatto scottante, parliamo di una serie televisiva che è un po' hot. Game of Thrones. Ah sì, lì c'è parecchio. C'è parecchio hot. Allora, sì, facciamo anche nella cosa. Prima serie era tutto un tipo, sembrava 1992. Basta! No, allora, anche lì è parecchio. Basta con 1992 e diamoci a Game of Thrones. Lannister, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Game of Thrones, abbiamo detto serie un po' hot, serie di cui è iniziata la quinta stagione. Però sì. Cosa è successo? Che alcuni episodi, sono stati diffusi in rete un po' prima. Perché? Chissà come è successo, non so se è un problema di pirateria, un problema... Non lo so, sai che vorrei parlare di Game of Thrones con la nostra esperta preferita? Ce l'abbiamo vero, al telefono? Questo è vero. Stefania Carini, ciao Stefania! Ciao, grazie del preferita, ma lo dite a tutti? Lei sì, io no. Ma senti, cioè, okay. Io sono sincero, lei no. Mi ha appena detto che, non so se hai sentito, ma mi ha appena detto che vuole limonare Madonna. Vabbè, guarda, no, questa puntata è già... No, ho detto che se passo lì e ho lanciato lì, soprattutto l'hashtag Marta Bacia. Certo, sicuramente, sì. Perché devo fare come Madonna e prendere la gente a tu caso e baciarla. Sempre. Comunque allora, Stefania, peraltro... Però poi dipende dalle reazioni, se ho ben capito. Esatto, sì. Perché poi se uno si pulisce la bocca è proprio, cioè, è la muerte. Allora, la muerte. Senti, secondo te HBO l'ha fatto apposta a far uscire queste puntate di Game of Thrones o niente? C'è allora, stata qualche pirata vera? Guarda, il discorso è sempre un po' un dibattito. Allora, l'anno scorso il gran capo di HBO aveva comunque detto che la pirateria per lui era come vincere un Emmy, perché alla fine questo significa che il tuo brand, il tuo prodotto, i tuoi personaggi, se sono i più piratati, e questo è una notizia, vuol dire insomma che sono i più amati, vuol dire alla fine pubblicità. È anche vero che in questo caso è un po' diverso, perché i 5 episodi sono andati in rete molto prima della messa in onda americana, e soprattutto è anche vero che in questo momento, proprio legato a Trono di Spade, HBO stava lanciando il suo nuovo servizio di streaming online. Tu puoi vedere i prodotti HBO al di là di avere un abbonamento satellitare. Quindi, come sempre, da un lato la pirateria può avere, come dire, la capacità di far esplodere, espandere un brand, è vero che ormai siamo arrivati a un livello tale per cui diventa preoccupante, diventa difficile, soprattutto, ecco, in questo caso poi è un brand molto diffuso, Trono di Spade è davvero stato comprato ovunque, quindi la pirateria diventa davvero... qualcosa che va a distruggere certi deal, certi accordi di vendita, comincia insomma a diventare un problema un po' più serio, soprattutto se le reti TV hanno in mente questi nuovi servizi di streaming. Stefania, tu hai scritto sull'autorevole testata sulla quale scrivi, cioè Twitter, che praticamente... No, non è vero, Stefania, no. Fa TV USA su Corriere.it, sì, leggiamo anche su Io Donna, vabbè. Ma guarda come cinico. Ma no, era per dire che non si capisce più niente, che i social network, Periscope, ormai una TV, tutto questo, vabbè, ma comunque questo è un altro discorso. No, dicevo, tu hai scritto che in realtà ritrae, racconta, adesso non mi ricordo bene come hai scritto, il potere meglio questa serie persino rispetto ad House of Cards. Questo mi ha stupito. Allora, secondo me è così, ovviamente l'ho scritto perché però non l'hai spiegato in 140. No, non l'ho spiegato perché tu effettivamente dovevi cliccare il link e ma come sai, noi siamo pigri sulla mia autorevole testata. Sì. E cosa dicevo? Dicevo che, ma questo lo penso fin dalla prima stagione di House of Cards, sì. Che è troppo facile in un certo senso giocare solo con un tipo di potere, alla fine la democrazia all'americana. Invece in Trono di Spade si mettono in scena tutte le forme di potere, dalle più dispotiche alle più illuminate, quindi vediamo tutte le possibilità politiche, salvo ovviamente la democrazia, anche se qua e là in alcuni personaggi c'è questa idea, questo germe almeno di potere illuminato, e proprio per questo noi riusciamo a fare meglio i confronti fra quello che è democratico e non è democratico, fra le idee politiche che possono emergere, e soprattutto è una descrizione del potere molto più raffinata, proprio perché mette in scena tutte le sfumature possibili. In House of Cards abbiamo ovviamente invece il personaggio di Frank Underwood, che fa un po' quel che vuole all'interno però di una macchina che è già stabilita. In questo caso l'interessante è invece vedere tutto il conflitto fra le varie opzioni, ed è molto interessante anche perché secondo me illumina meglio il presente, illumina il fatto che forse alcuni personaggi di Trono di Spade pensano il potere in una certa maniera e lo pensano così anche sovrani, politici cosiddetti democratici dell'Occidente. Questa è la cosa più interessante. Secondo me è molto più complesso. Soprattutto un'altra cosa, siccome è un fantasy, tendiamo a considerarlo un po' un genere minore. Questo succede, io sì, io lo faccio, per è i colpa giornalisti mia. Succede anche per chi dà i premi agli Emmy, non ti preoccupare. E quindi, siccome è un genere fantastico, sì, vabbè, fa niente, non è così raffinato come il political drama. Su questo hai ragione, via. Hai ragione Stefania, su questo. In realtà dietro c'è molto, cioè bisogna superare un po' questa resistenza dei generi che tendiamo a leggere come un po' nerd alla fine. Però vorrei parlare anche un po' delle novità che tu hai visto in questi giorni, perché sei stata a Cannes. Beata. TV. Sì, sì, è andata a vedere un po' di novità. Allora ne approfittiamo, ti sfruttiamo ancora per qualche minuto. Adesso c'è una breve pausa. Però così ci racconti un po' di quello che hai visto a Cannes. Curiosiamo, curiosiamo. Va bene Stefania, ci risentiamo tra pochissimo. Va benissimo. A tra poco. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Buon pomeriggio da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo, gli ascoltatori di Radio 24. Fino alla fine di oggi atmosfera molto instabile al nord e sulle regioni del medio alto Adriatico, con alta probabilità di piogge e rovesci e anche qualche temporale. Il tutto accompagnato da venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Domani comunque il tempo tenderà rapidamente a migliorare al centro nord, ritroveremo invece un po' di variabilità al sud, con il rischio soprattutto a inizio giornata di qualche locale acquazzone o piovasco. Nel pomeriggio di domani invece qualche temporale potrebbe formarsi nelle zone interne del centro e della Sardegna. Dal punto di vista delle temperature, diciamo, sta arrivando aria un po' più fresca. Domani temperature in diminuzione anche al centro-sud, un po' in tutta Italia non andremo oltre i 20 gradi. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sul sito trebimeteo.com. YouTube. Oh, rieccoci insieme con Siamo la nostra qua. Stefania Carini, super esperta di serie TV, io donna. Che è appena tornata da Cannes. Sì, è Corriere stata a Cannes. Stefania, tu sei stata al MIP TV, che è praticamente diciamo una fiera in cui si mostrano tutte le novità delle prossime stagioni. Televisive. Ma è anche un mercato, no Stefania? Cioè le TV vanno a proporre i loro prodotti. Sì. Con le bancarelle in un certo senso c'è chi va in Costa Azzurra a cercare i mercatini di vestiti carini, invece io vado a, come dire, cercare fra le bancarelle della HBO, di Starz, di Rai, di Mediaset, tutti, come dire, i flyer e delle future serie televisive, documentari. Ci sono le grandi case di produzione, i grandi gruppi distributivi, ma anche i piccoli indipendenti. Gli autori, i produttori, i distributori si incontrano. Il mercato più grande non è questo di aprile, è quello di ottobre. Ci sono i vari incontri, si mostrano le anteprime, si fanno in alcuni casi delle prime interviste, delle prime conferenze stampa, e in questo modo l'industria si parla non solo via mail, via telefono, ma ci si guarda in faccia, ci si vede, si vedono le anteprime e si decide cosa comprare, cosa no, e anche le future, come dire, le future partnership fra i piccoli e i grandi gruppi. Allora io so che cosa tra, tra i programmi italiani che vengono proposti, cioè, sì, avranno mandato il migliore, no? I migliori sicuramente. Allora io cioè vorrei ritornare un che po'. Cosa abbiamo mandato? Che cos'è che ha rappresentato il nostro stellone? Entriamo in atmosfera con questa musica. Ce la farò con un po' di fortuna. Ce la farò come un gabbiano che cerca il suo nido. Ho un po' di paura ma ce la farò. Vabbè, ma questa era ce la farò. Come un gabbiano. Carta canta, Marta canta. È bellissima. Forte, forte, forte. E quello non l'abbiamo, ma quello non l'abbiamo mandato. Già mi manca. Mi hai detto quello? Stefania. No, dai. Abbiamo mandato anche quello. Cioè stanno cercando di vendere forte. Magari ma era sulla bancarella? Magari andrà succede fortissimo. Così. Allora era sulla bancarella. No. Cioè non c'era lì la Carrà. Hanno fatto un incontro per presentare i prodotti Rai. Tra l'altro devo dire comunque, rispetto anche ad altri gruppi e televisioni estere, comunque noi abbiamo dei buoni prodotti più o meno di livello, solo che a un certo punto tra un Montalbano giovane e vecchio, diciamo, tutte e due le versioni tentavamo di vendere, tra i format è comparso forte forte forte, spero che nessuno ci caschi, perché nessuno ci caschi non è male, ma scusa, ma se lo vendiamo all'estero non c'è più qui, no? Lo facciamo per proprio per mandarlo come, cioè, format, non credo, no? Che comunque si corrano, no, non credo che accadrà, non so nemmeno come mai è stato inserito, perché proprio non ma c'era una mamma imperfetta, c'era ma non è che gli danno anche come promozione zio Gianni bello, ma non è che assieme a Forte Forte gli danno, non so, una puntata di Benigni, cioè lo fanno qualche promozione, un pacchetto, un'occasione, una roba del genere. Un pacchetto, può darsi anche che, sai, funziona così, però ti trovi alla fine a dover a mostrare Montalbano e poi a dover rifare Forte Forte Forte. Non ho capito se con la Carrà o meno, perché alla fine il programma era la Carrà, per cui lei lo può fare in più lingue. Comunque, è vero, lei lo può fare in tutte le lingue. Sì, quasi come Marta Cagnola. Comunque, esatto, c'è un passeggero per ogni treno, eh? Quindi, secondo me, metti nel mercato, chi lo sa. Forte, forte, forte, andrà forte, forte, forte da un'altra parte. Ma invece lei cosa avrà comprato, la Carini? Qualcosa che le è piaciuto? Beh, ecco, Stefania, cosa avresti comprato se avessi dovuto comprare qualcosa? Di prodotti televisivi, intendi? Uh-huh. O sì, di altri miei giri per shopping, perché shopping normale non ho comprato niente. Di prodotti televisivi, qualche dolce invece, immagino, vedendo la tua timeline. No, c'erano due cose interessanti che purtroppo, perché alla stampa non fanno ancora vedere le cose, le fanno vedere solo ai compratori professionali. Due cose però mi hanno incuriosito. Uno è la ricostruzione della storia della mafia americana per History, e quello appare una cosa, insomma, interessante, un docudrama ben ricostruito. L'altra è Versailles, questa mega produzione francese che vuole ricostruire attraverso attori e autori inglesi un grande momento della loro storia, e tra l'altro me l'hanno un po' descritta gli autori come l'House of Cards a Versailles, quindi tutto si tiene alla fine. Cioè, autori inglesi per la storia francese? Esatto, e quindi io scherzando ho detto, vabbè, i francesi faranno, perché gli americani fanno gli inglesi con The Royals, gli inglesi fanno i francesi faranno gli italiani, noi non so cosa andremo a fare. Sì. Peraltro anche House of Cards parte in Gran Bretagna. Stefania, la prossima volta ci vieni a trovare in studio? Dai, vieni a trovare. Tra un dolce, un viaggio e l'altro. Esatto, allora a presto Stefania Carini, grazie. Ciao. Stefania, grazie per essere voi. Stata Ciao. Con noi. Grazie Stefania. Noi dobbiamo dedicarci un po' a un fenomeno della rete adesso. Oh, Fiorello. No, meglio. Allora, vero o falso che sia? Perché in rete qualcuno dice è un fake. Secondo me è un comico. Verissimo. No. Secondo me è verissimo. Allora, in realtà il video ha un po' di tempo perché circola già da svariati mesi. Lui si chiama Enrico Pasquale Pratticò. Sì. E ha usato, con avrebbe due t, usato. Pratico. Cioè, vorrei dirti che c'è Andrea in regia che lo conosce, sta ridendo come un matto. Fantastico, Andrea sta ridendo. Pasquale Pratticò che cercava la fidanzata. Vabbè, e fino a qua non c'è. Ah, su YouTube. Su YouTube, e quindi noi mostriamo Enrico Pasquale Pratticò. Sì. Cerca la fidanzata su YouTube. Vediamo. Sì, io sono Enrico Pasquale Pratticò, abito a Motta San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino. E quelle ragazze che mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex. Che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna, e sono un carino ragazzo. Trovate a me su WhatsApp Enrico Pasquale Pratticò, il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri. Così mi trovate voi, e sopra Facebook Enrico Pasquale Pratticò con tutti. Ciao. E la mia vita, sono qua, io mi cattai la PlayStation 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo, e voi che facete? Ciao. Ma Ma dai, ma fa la pubblicità pure. Beh, è straordinario. Allora, qualcuno ha detto, vabbè, ma è vero. È un product placement. È diventato un fenomeno della rete negli ultimi mesi. Credo, diciamo. Però non so se ha trovato la fidanzata, che a me piacciono bionde, capelli neri. No, se per caso la fidanzata è all'ascolto, ci faccia una chiamata su Factbook. Siamo... Ecco, perché comunque, secondo me, è un ragazzo serio che lavora. Che non hai grilli per la testa. Tu vuoi arrivare lì, sul fatto della vigna ti piaceva? No, mi piaceva un sacco la vigna. Allora, il video ha qualche mese. Sì. Ma adesso si sono diffuse le parodie. Eh beh. Te lo ricordi? Perché questa non era... No. Te lo ricordi? Shish is the word. Globish di Renzi. Esatto, sì. Quel famoso video Shish is the word. Il remix di Renzi fatto da Christian Ice. Sì. Ecco, Christian Ice ha remixato anche Enrico Pasquale. Ma Pratico. Vediamo com'è venuto. Vediamo il video. Quelle ragazze che mi piacciono a me mi piacciono biondi. Uomo e donna di Rescupa, no, maschio e maschi. Capelli neri, macri, bellissimi, sexy. Non uomini, non gay e non trans. Bellissimi, sexy, sexy. Io sono a casa, sappo, a vigna. Lavoro, voi che facete, ciao, ciao. Sono un ragazzo carino. Io sono a casa, sappo, a vigna. Lavoro, voi che facete, ciao, ciao. Sono un ragazzo carino. Vabbè, Christian Ice è un genio, carino. È molto carino. Lui, molto carino. Poi molto con questo carino. Secondo me la trova alla fine la fidanzata. Ma sicuro, cioè se non l'ha ancora trovata, guarda, ha un fatto una serenata un rap dalla sua voce, pratico. Fighissimo. Ma sai che tante parole. Non mica solo una, addirittura. C'è il vostro caro Dex. Vabbè, però ci sarebbe, mia. Il vostro caro Dexter, sì. Che è uno youtuber molto molto molto famoso, ha 600.000 iscritti. Il vostro caro Dexter ha fatto il simulatore di Zappa la Vigna. Cioè una specie di tutorial. Sai che adesso questi ragazzi fanno, cioè sono degli youtuber gamer, cioè si riprendono mentre giocano. Tipo quello che è andato in America, che abbiamo avuto al telefono. Favij, grandissimo. Io li conosco tutti perché ho mio nipote che li guarda tutti, che li conosce. Allora... il vostro caro Dexter ha fatto un video in cui gioca al simulatore di Zappa la Vigna. Zappa la Vigna. Eccolo qua. Pratico. Io ascolterei il simulatore di Zappa la Eccolo Vigna. Qua. E ciao a tutti amici, sono Enrico Pasquale Praticò e oggi sono qui per lavorare Zappo a Vigna. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e siamo tornati con una compilation di giochi. Siamo qui pronti per zappare la vigna. Guarda quante pannocchie da zappare. Macri. E continuate a suggerirmi giochi qua sotto per le prossime compilation. E 25.000 mi piace. Prossimo video, oddio. Cercasi killer nella tua zona. Motta San Giovanni. Il fatto è che diventi pesante. Mamma mia, sembra che le pannocchie te le sei magnate, no? Che le stai trasportate. Beccate ste pannocchie e dammi i soldi, big money. Capito? Sì, è tutto con doppia T peraltro, è Motta, sì, tutto... Lui abita lì, in questo posto. Mi è piaciuto comunque di più la canzone, però lui, anche il tutorial lui, è divertente, il video è più divertente. Viva lui e viva anche il vostro caro Dexter. Tra poco ti faccio vedere una cosa molto particolare che fanno questi youtuber, che a me stupisce sempre moltissimo. Perché di che io ambito? Cercano fidanzate? No, allora io cerco di entrare nel loro mondo per capire nella loro testa, ma c'è un fenomeno che io ancora non sono riuscita a interiorizzare. Cioè? Quello dello spaccato. Tu sai cos'è lo spacchettamento? Non ne ho la minima idea, dei regali. Allora, tra qualche istante ti mostro un video di spacchettamento. Dopo il traffico del villaggio. Ebbene sì, dopo il traffico del villaggio, tra pochissimo. Radio Tube. E come passa il tempo. No, però è stato veramente divertente. E così è. Soprattutto le prime due ore di questo sabato del villaggio. La terza, di sabato. Allora, l'aperitivo, esatto. Però questa settimana a Milano è stata la settimana... Aspetta, prima voglio parlarti dello spacchettamento. Non spacchettiamo ancora i mobili nei pacchi. Io pensavo voglio parlarti dello spacchettamento. Allora, stavamo dicendo che questi youtuber spacchettano, praticamente questi youtuber molto famosi ricevono un sacco di regali. Sì. Cioè i loro fan spediscono loro fisicamente, ma montagne di regali. Cosa ma fanno? Di che tipo? Ma di qualsiasi tipo. Quindi fanno dei video, ad esempio Favij J fa dei video in cui... Beh, certo, per educazione, perché per i regali vedere. Si aprono davanti. Certo, e ci sono video interi di spacchettamento di regali. E c'è gente che li guarda. Ci sono i video vedi di spacchettamento. Che c'è un passeggero per ogni e tempo. Questo è esatto, lo uno spacchettamento del vostro caro Dexter. Vediamo, per forza. Figura, il siamo qua caro apposta. Dexter che spacchetta, eccolo qua. E ciao a tutti amici del vostro caro Dexter, e oggi sono qui con uno spacchettamento speciale. Spacchettamento del Romix, tutti i regali che mi avete fatto. E io vi ringrazio sempre tanto per tutto l'affetto che mi dimostrate ogni giorno e alle fiere. Siamo 600.000 iscritti, più di 500.000, verso il milione. Wow! È stata un'esperienza bellissima a Romix. Probabilmente sarò presente al Comic Con di Napoli. Comunque vi farò sapere anche sulla mia pagina Facebook che trovate in descrizione, Instagram. Quindi seguitemi dappertutto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ragazzi, cominciamo con lo spacchettamento selvaggio. Lasciate tanti mi piace, ogni mi piace un augurio per i 600.000 iscritti. Ma adesso siamo pronti a spacchettare questo ben di Dio. Intanto ringraziamo Fatima, Sara e Gabriele per il pecaccio che mettiamo qua. Cioè io intanto apro la scoperto. Io apro la pagina Facebook del vostro ciao caro Nicolò Dexter. Piace a una persona, a mio nipote Nicolò. Ciao Nicolò, ciao Nicolò. Mi piace il vostro caro Hai Dexter. Hai dei buoni gusti. Capito, il video degli spacchettamenti. Sì, è molto successo, per certo i numeri 600.000 fa impressione. 600.000, pensa che ne ha 60.000 su Instagram. Cioè, secondo me è forte, ho fatto di meno di oggi. Esatto. No, adesso però basta. Vabbè, perché lo chiameremo, basta lo intervisteremo il vostro caro Dexter. Adesso posso fare il volta pagina che volevo fare prima? Dai, se non vedevi l'ora, dai. Ma no, perché io veramente ho trovato traffico in bicicletta. Cioè, non riuscivi a muoverti in bicicletta. Sì, a parte il casco. Però dico, veramente c'era un sacco di gente fuori salone, dentro il salone. Più gente cioè, fuori sei già salone diventato quello che brontola quanta gente. Ho scoperto cos'è da 2 minuti, ma già sono il milanese imbruttito. Ma lasciateci andare almeno in bicicletta. No, tu sei il milanese un po' anziano, tu sei molto il milanese anziano. Brontolone, tu sei il milanese brontolone. Ma il milanese imbruttito è un fenomeno ormai da anni. Spiegamelo. Possiamo dire. Il milanese imbruttito credo sia nato in realtà come gruppo di Facebook, semplicemente. Sì. Adesso controllo anche quanti fan ha e sono tantissimi. Ci sarà Nicolò? Perché... sicuramente. Allora, il milanese imbruttito spiega che spiegava soprattutto i luoghi comuni. Con dei cartelli. Sì, sì. I luoghi comuni del questi milanese, cittadini dico. Così creativi. Simpatici cioè che sono gli abitanti della capitale morale. Ecco, www.ilmilanesimbruttito.com piace a 532.000 persone su Facebook. Sì, e vuoi poco. Che il milanese imbruttito non ci parli della Milano Design Week? Beh, di questo certo, delirio ce la racconterà. E come? Il resto d'Italia si può solo immaginare tra... ragazzi con la barba, vestiti un po' da hipster... Moda, poi torna la moda per le modelle, tutto l'Oriente qui. Allora, ma ne capiranno qualcosa secondo te di mobili e di design quelli che ci sono in giro? Ma non credo vadano per i mobili, andrebbero dentro al salone, quelli che vanno fuori il salone. Allora sentiamo l'intervista, c'è qualche parolaccina, ma niente di è imbruttito. Che il milanese imbruttito. Prima di tutto, cosa te ne pare di questo fuori salone? Che palle! Interessante, tutte queste festicciole dove si beve? Si deve bene. Ma si beve gratis? Vabbè, per forza, se no non sverrei qua a queste feste, no? Che cosa ti ha colpito in questo fuorisalone? Si può dire? Fascia protetta? Vai. La fica. Allora, qual è la differenza tra arte e design? Dunque, che il design perlomeno si... Dunque, l'arte è una cosa che viene dall'interno, mentre il design è una cosa che tu... arredamento e creatività comunque. Il design mette un po' più di creatività, no? Sono stupida. Il vero design figo, non c'è differenza tra arte e design? Il design può essere qualunque cosa, l'arte secondo me è un po' più pittura, queste cose qua. Il design ora come ora, che io odio, però puoi mettere anche una linea così, potrebbe essere chiamato design. Nel design c'è più figa. I parametri sono chiari di alcuni. Ecco, capito, di alcuni i parametri sono chiari, di altri un po' meno. Cioè che tu, no, prendi, no, che cosa che io odio, che io fai odio. La riga e quella design. Dai, ancora un po' di ce n'è ancora? Ce n'è ancora il milanese imbruttito alla Design Week. Che durata ha un oggetto temporary? Un oggetto temporary ha una durata, secondo me, 6 mesi, un anno. Credo un mese? Sì, un mese e mezzo. 3 mesi. Una settimana? Ma fai un 2-3 mesi? Un mese. Un mese, sì, anche per me. Sappiamo tutti che ormai il tempo arriva molto di moda. Una settimana, se non mi sbaglio. Massima forse un mese, massima durata. Però tendenzialmente una settimana dura. Una settimana? Penso. 3 mesi. Adesso. Finito. Finito. Basta. Penso che avevo un sacco di roba a casa temporary. Butta via. Un paio di giorni, penso. Temporary 2 weeks. Secondo te è più importante il concept o la location? Beh, la location fa tanto, eh. Sì? Sì, la location, 8 su 10 è la location. Il concept. Il concept! La location è più figa. Perché tanto il concept non te lo puoi portare a casa, no? Quindi vai almeno alla location. Il concept. È il concetto! Questo lo so. Hai capito il concetto? Marta, tu ti senti più concept o più location? Un po' tutte e due. C'è cioè la location senza il, il concept. Cioè, però secondo me il concept te lo puoi portare a casa alla fine. E la location no. È il contrario. Concept... Anche io sono, sì, con il concept. Team concept. Lanciamo l'hashtag team concept. Comunque, secondo me, la più bella delle ultime ore del milanese imbruttito: il milanese imbruttito non sopporta i bancomat lenti. Sono lentissimi, nervoso, è già nervoso. Anche perché lì non danno al bancomat da bere gratis, mangiare. No, c'è la figa, come dicevano. Però non è che erano tutti con l'accento milanese, no, c'erano accenti del nord-est. Il milanese imbruttito può anche essere di altre regioni, esatto. Anzi, noi siamo cosmopoliti, l'importante è essere imbruttiti, sul milanese si vede. Comunque, a quest'ora, secondo me, cioè, andiamo si va a salone. Far l'ape, certo, fuori salone, sabato è aperto, del milanese imbruttito. A fuori, tu vai fuori, io vado dentro. Tu vai nel... No, al fuori salone si va, va bene. Come passa il tempo. Salutiamo Nicolò. Salutiamo Nicolò che sarà a casa a vedere dei video di spacchettamento. Di tutorial di spacchettamento. Perché oppure lui sarà ascolta, fuori salone. No, può lui andare? Ascolta il podcast. Lui si scarica il podcast. Subito, sai? Tra poco lo possono scaricare tra poco, tutti. Poi sul anche sito radio24.it, anche con le nostre meravigliose foto. C'ho sempre quella foto in cui sembra che ho il doppio mento. E io sembro tutto, sono di profilo, c'ho un naso. Ma che doppio mento, la faccio cambiare. Dobbiamo ringraziare Andrea che per la prima volta ci ha fatto regia. L'abbiamo fatto impazzire. Basta, non lo facciamo più impazzire la prossima volta. Sempre che lui voglia che ci sia una prossima volta con noi. Comunque, grazie e noi vabbè, l'appuntamento sabato. La prossima settimana, sabato del villaggio alle 15, Radio Tube alle 17. Alla settimana prossima. Ciao Marta.